un cuore battito senza silenzi mai, e per fortuna non necessita manutenzione, e quando sciopera uno si regola, non si incendia quanto trattasi d'amor, d'amor, d'amor. Un cuore forte che regge un urto, anche perché prima si sfondano le costole, non ha peccato, non ha reato, ma spesso piange quando trattasi d'amor. Un cuore a volte muore per un dolore vero, che strapazia la pelle e la riporta agli angeli. Un cuore viaggia solo e non dimentica, che se si chiude dentro è per difendersi. Un cuore non è tuo, però si stressa un po', un cuore dimora per l'eternità. Na na na na na na na na na na na. Ay ay ay oh, ay ay ay oh. Cuore dimora per l'eternità. Oh amore baciami, che la tua bocca grande fatta per invadermi senza convincermi. Amore prendilo, tuo cuore libero, e falla diventare tuo motivo più. Amore impavido, tuo cuore impavido, e fallo diventare una ragione più. Un cuore a volte muore per un dolore vero, che trapavia la pelle e la riporta agli angeli. Un cuore viaggia solo e non dimentica, che se si chiude dentro è per difendersi. Un cuore non è tuo, però si stretta un po', un cuore dimora per l'eternità.